Una sera dopo cena, l'una di primavera stava aspettando nel giardino deserto il marito, giocando oziosamente a scacchi da sola, finché improvvisamente cadde una goccia di pioggia che fece diventare rosso il fiore rosa ricamato sulla sua manica. In lontananza il tuono. Entrò all'ora del topo, la tempesta era finita, ma lui non era venuto. Era molto tardi quando finalmente si addormentò. Il mattino dopo la parte del letto in cui riposava lui era intatta. Come la maledizione scagliata da un nemico, la salì il pensiero. Ho perso mio marito senza esserne stata moglie. Così come le era venuto, cercò di mascherarlo nel timore che una simile idea presagisse l'evento. Per ingannare gli dèi si rimproverò ad alta voce. Stupida ragazza, vedi una goccia e immagini un'inondazione. Stupida. Rapidamente scostò il copriletto e si mise al posto di felice promessa, agitandosi come faceva lui durante il sonno. Poi, come ogni mattina, nascose la trapunta arrotolata e chiamò Ciccia per preparare il tè. Per tutto il giorno cercò di comportarsi come se non fosse successo nulla di grave, grata per una volta che le piogge costringessero la suocera a casa, tenendo così occupata la nuora. Ma quando venne la sera e lui non tornò, si confidò con Ciccia. La vecchia impallidì senza guardarla negli occhi. Che cosa c'è? Gridò l'una di primavera. Ho pensato che fosse partito questa mattina presto per andare alla società. Ma cosa c'è, Ciccia? Chiese tirandola per una manica. Dimmi, dimmi. Era la prima volta che vedeva la vecchia serva spaventata. Oh, i mercanti ne hanno parlato tutto il giorno. Ci sono soldati dappertutto e le porte della città sono chiuse. L'hanno ucciso, pensò l'una di primavera. Poi, no, no, sta bene. Se fosse morto lo saprei, non è successo nulla, nulla. Giovane padrona, devo mandare vecchio Falco a indagare. Un incubo, non riusciva a pensare, ma doveva? Ciccia ripeté la domanda. No, non lasciare il cortile, fra poco sarà qui, ne sono certa. Non doveva perdere il controllo. Vuoi che resti con te? Scosse la testa e mandò la serva nel suo alloggio. La pioggia lasciò come un brivido nell'aria e lei aggiunse tizzoni nel braciere prima di andare a letto. Aveva parlato di nemici politici, ricordò. Che io possa addormentarmi e trovarlo qui quando mi sveglierò, continuava a pregare. Ma il sonno non veniva. La guardia intonò l'ora del topo e quella del bue e si sentiva soltanto il fruscio del vento fra i salici. L'ora della tigre passò e così anche l'ora del coniglio. Il vento era più forte ora e i salici gemevano. E improvvisamente l'una di primavera si rizzò a sedere. Aveva sentito un rumore di passi sulla veranda. Fratello maggiore! Nessuna risposta. Accese rapidamente la lampada a olio nella nicchia a lato del suo capezzale. Felice Promessa era sulla soglia, fradicio e infangato. La figura alta e magra era scossa dai singhiozzi. Lei si gettò giù dal letto per aiutarlo. Che cosa è successo? Dove sei stato? Lui non diede risposta. Non mi riconosce, pensò. Si protese verso di lui e gli prese una mano. Scottava. Che cosa è successo? Dove sei stato? Di nuovo non ricevette risposta. Come se fosse un bambino, lo accompagnò alla bacinella e vi versò dentro l'acqua per ripulirgli la faccia. Lui rimase lì, senza opporre resistenza, mentre lei gli toglieva gli indumenti bagnati, gli faceva indossare quelli asciutti presi dal guardaroba e lo avvolgeva nelle coperte, mentre versava il tè dalla teiera. Vicino al braciere, lui sedette sulla sponda del letto, immobile, ad eccezione dei brividi che ancora lo scuotevano. Lo persuase a bere, gli battevano i denti contro la tazza di porcellana. Che cosa è successo? Per favore, dimmelo! Ma lui non diede segno di aver capito. Allora gli mise le braccia intorno alle spalle, lo fece sdraiare e poi gli si allungò accanto per riscaldarlo. Dopo molto tempo si acquietò e sembrò addormentarsi. Lei non osava muoversi. Kuan Yin, misericordiosa, ti supplico, aiutalo, pregava. Buddha, misericordioso. Improvvisamente lui si liberò dal suo abbraccio e si alzò a sedere, urlò. No, no! Singhiozzò di nuovo. No! Va tutto bene, tutto bene. Cercò di calmarlo come faceva con lei Fiore di Prugno quando era bambina. Tenendo la sua testa sul petto, cullandolo. Shh, è stato soltanto un sogno, sei a casa. Nessuno può farti del male qui. Le sue parole sembrarono confortarlo perché si calmò e tornò fra le sue braccia, ma per poco. Poi si appoggiò alla testiera del letto, stringendole le mani, capì che voleva confidarsi con lei e aspettò, immobile. Non è stato un sogno. parlava con difficoltà. Che cosa vuoi dire? Io non ho fatto niente. Ho lasciato che accadesse. Sono rimasto lì a guardare. Che cosa? Devi dirmi cosa è successo. Lui non rispose, ma continuò a parlare da solo. Lo sapevo e sono scappato. Sapevo che lei lo aveva fatto imprigionare. Sapevo che sarebbero venuti e non ho fatto nulla. Ti prego, non capisco. Dov'eri? Di nuovo non rispose, attirandola invece verso di sé. La sua faccia non rasata le grattò la guancia. Moglie mia, mormorò, moglie mia. Tenendola vicina, le parlò, fissando la tenda in fondo al letto, come se vi fosse raffigurata sopra la scena che stava descrivendo. Ieri, nella zona dei festeggiamenti, vicino al ponte del cielo, si era accolta una folla, malgrado la pioggia scrosciante. Erano venuti per divertirsi, ma non c'erano né orsi danzatori, né lottatori, né acrobati su pali di bambù. C'erano invece i miei amici, cinque appartenenti al movimento, mentre il sesto era il fratello di Kang Youwei. Era stato il gatto catturato per spaventare la scimmia. Io stavo fra i curiosi e ricordo un ragazzo con piaghe sulla testa che mi tirò per una manica e poi strisciò avanti per vedere meglio. La pioggia incollava il cappuccio nero sulla faccia del boia. La sua spada! Si fermò. L'una di primavera non si mosse e dopo qualche minuto lui proseguì. Un magistrato lesse il verdetto del pennello vermiglio. I miei amici si inginocchiarono. Una guardia tirò a ciascuno la coda sul capo per lasciare scoperta la nuca. I corpi erano ancora inginocchiati mentre le teste rotolavano nel fango. La febbre di felice promessa cessò soltanto all'ottavo giorno. Lentamente riprese le forze. A quell'epoca non capitò mai a Luna di Primavera di domandarsi come mai un grande dolore e una grande felicità possano coesistere e come, soltanto dopo che suo marito ebbe visto l'orrore e la malvagità, loro due potessero conoscere la bellezza e il bene di essere realmente marito e moglie. A quell'epoca, il mattino dopo la loro prima notte d'amore, mentre lui dormiva ancora, si limitò a schizzare una poesia. Non più stranieri, ma ancora estranea. Quella che si fa beffe di me nello specchio di bronzo, così diversa da quella fragile ombra, mi sono creduta, a lungo esiliata. Sono finalmente a casa. 8. Attesa silenziosa. Il 22 settembre 1898 la concubina proclamò: Poiché l'imperatore è malato, l'imperatrice vedova riassume la reggenza. Il 26enne imperatore fu imprigionato in un'isola del parco imperiale e i suoi editti furono annullati e cancellati. Storia cinese. Mentre i rapporti di felice promessa con il fuorilegge Kang Youwei non erano passati inosservati, il suo ruolo era stato troppo secondario e la posizione di suo padre era troppo prestigiosa perché subisse delle rappresaglie. Scomparsa la società di riforma, lavorava a casa, traducendo in cinese per i burocrati le notizie politiche dalle pubblicazioni in lingua inglese e in inglese, per il corpo diplomatico le dichiarazioni della corte. Con entusiasmo, Luna di Primavera si offrì di aiutarlo. E che ne sarebbe dei tuoi doveri verso mia madre? Oh, Porpora consentirebbe, ne sono sicura, se fossi tu a suggerirlo. Non ti ha mai negato niente, ricordale che non occorre pagarmi. Ma quando la proposta le fu presentata, Gioia di Loto rifiutò. Figlio mio, sarebbe la soluzione perfetta per te. Se potessi acconsentirei, ma chi servirebbe me? La sua voce mielata mal dissimulava la sua acredine. Non avendo alternative, Luna di Primavera incassò la delusione e continuò a servire la suocera come prima. Fu poco dopo il Capodanno che cominciò a notare la mancanza di diverse cose. Niente di valore, ma un giorno una manciata di dolci, un altro una tazzina e un po' di tè che aveva lasciato nella teiera. Ciccia, che sospettava si trattasse di un topo, riferì la scomparsa di un anatrocolo che aveva messo da parte per la colazione di vecchio falco. Poi, un gelido mattino, Luna di Primavera udì un rumore provenire da un recipiente per la pioggia che in quel momento era vuoto. Sbirciando dentro, vide, rivolta verso di lei, la faccia di una ragazza e riconobbe la muta che era entrata in casa per la prima volta insieme a una vecchia mercante che vendeva filo, così sottile che gli eunuchi non potrebbero procurarne di migliore per la vedova. Pur ordinandole di uscire, Luna di Primavera provava pena per lei. La creatura era molto fragile e evidentemente gelava dal freddo Inoltre aveva rubato soltanto del cibo e poco per giunta. Il baule ricolmo di mantelli foderati di pelliccia che si trovava nello spogliatoio non era stato toccato. «Vieni fuori!» ripeté. Fu costretta ad accompagnarla dalla suocera, che stava contrattando con un venditore di mercanzie d'ottone nel cortile della cucina. Benché il cancello dei mercanti fosse aperto, la poveretta non fece alcun tentativo di scappare, mentre Gioia di Loto mandava le donne a ispezionare i cassetti e i cassettoni della famiglia. Stava diritta, con le braccia lungo i fianchi, nonostante il vento sferzante le penetrasse attraverso il tessuto sottile e stinto dei pantaloni e della casacca. In quella posizione era rimasta anche Fiore di Prugno, pensò improvvisamente Luna di Primavera, in attesa davanti alla camera in cui riposava il venerabile moribondo. Quando fu definitivamente confermato che nulla mancava, Gioia di Loto annunciò la sua decisione. «Che vada!» «Via, subito!» urlò la concubina. La ragazza fece un passo verso il cancello. «No!» gridò Luna di Primavera. Sentendo la propria voce, si costrinse a un sorriso di scusa. Non potrebbe restare. Con questo freddo morirebbe sicuramente se la cacciassimo. E allora? Ribatté la concubina. Lei non è una nostra parente. Molti hanno fame, vuoi forse nutrirli tutti? Le altre obiettarono che la muta avrebbe portato sfortuna. Gli dèi la stanno punendo per i peccati commessi in un'altra vita. Non metterti di mezzo. Ma porpor. Supplicò Luna di Primavera. Un destino infelice non è sempre la punizione degli dèi. La suocera esitava. Luna di Primavera proseguì. È tanto piccola e non mangerà granché. È muta e non farà rumore. È sola al mondo e non ci costerà un centesimo. È una contadina e non servirà a nulla. L'addestrerò io, Porpor. Non mi porterà via tempo, ne sono sicura. E nel frattempo chi si occuperà di me? Non posso quasi camminare in questi giorni. Mi dolgono talmente le gambe. Allora intervenne Ciccia. Facciamo una prova, padrona. Lasciamo che resti e io ti servirò. Queste dita magiche, le agitò in aria come per fare un massaggio, ti riporteranno al tavolo di Mahjong per 48 partite di seguito, garantito. Gioia di Loto giocò per un attimo col braccialetto di lapislazzuli che aveva al polso, poi, come se fosse una questione insignificante, rispose: Sì, la compagnia di mia nuora cominciava ad annoiarmi. La ragazza può restare. Ben ripulita, vestita e nutrita, Marionetta, come la chiamavano tutti, si rivelò molto carina. Lo spigoloso viso da settentrionale abbellito da una pelle perfetta e da grandi occhi castani. Col tempo si rivelò una cameriera personale estremamente efficiente e col tempo la routine quotidiana di Luna di Primavera divenne più simile a quella che praticava a Xu Chao, benché ora lavorasse davanti alla scrivania di suo marito, anziché dello zio, e fosse una donna, non più una bambina. L'affetto che era seguito al matrimonio, l'amore che era seguito all'intimità, la reciproca comprensione che era nata dal tempo trascorso insieme, riempiva la sua vita. Spesso, senza una parola o un gesto, ciascuno sapeva cosa pensava l'altra. Non mettevano mai in mostra la loro gioia, sarebbe stato volgare, ma tutti quelli che li conoscevano la sentivano. Le serve conclusero che il giovane padrone e la giovane padrona devono essere già stati sposati in un'altra vita. E Marionetta doveva essere il loro cucciolo. Eppure, nonostante tutta la sua felicità, Luna di Primavera osava sfidare gli dei capricciosi e pregava che altri due suoi desideri venissero esauditi. Benché avesse percorso più di 2000 li e vivesse nella capitale da oltre un anno, la sposa non si era mai spinta oltre le mura del giardino. Ogni sua richiesta di unirsi a chi stava uscendo, che si recasse in visita alla vicina famiglia Lin, o facesse una spedizione al convento di Nostra Signora della Buona Vista, o andasse a una festa all'ambasciata americana, era respinta dalla suocera. Nessuno, nemmeno Felice Promessa, osava interloquire per timore di compromettere i privilegi di cui Luna di Primavera godeva. Inoltre, si diceva, era soltanto una questione di tempo. Perciò passava in primo piano il secondo desiderio. Man mano che le settimane passavano, si ritrovava a volte piena di speranza, poi vedendo che ogni mese si chiudeva con lo stesso risultato di delusione. Che senso aveva la beatitudine che lei e Felice Promessa godevano nella loro camera nuziale se non nascevano figli? Quanto tempo avrebbe aspettato ancora la casa dei Wu? Un anno, al massimo due, dopodiché avrebbe dovuto inginocchiarsi davanti a lui e supplicarlo con tutto il cuore di assolvere il suo dovere filiale prendendo una seconda moglie. Fu poco dopo la celebrazione del secondo capodanno nella casa della suocera che una donna senza volto si intromise nei sogni di luna di primavera, svuotando la libreria per installare un letto nel quale Felice Promessa si univa a lei con quell'ardore e quella tenerezza che luna di primavera conosceva. Ad ogni accoppiamento, suo marito e la donna senza volto sembravano inoltrarsi sempre più in un loro mondo segreto dal quale lei era esclusa. Talvolta nel sogno li chiamava, ma la sua voce si perdeva per strada e loro sembravano non udirla mai. Infine i due si allontanavano talmente che persino le loro ombre scomparivano e luna di primavera restava a fissare l'orizzonte in attesa. Mentre osservava, qualcuno veniva verso di lei, dapprima non più grande di una macchiolina, poi una sagoma confusa. Alla fine vedeva che suo marito era nello stesso tempo uomo e bambino, la casa dei Wu si inchinava davanti a lui, si inchinava al nipote del Hanlin. Ogni notte era lo stesso sogno. Desiderava disperatamente confidarsi con qualcuno, ma la lettera che scriveva ogni mese a sua madre conteneva soltanto notizie liete. E anche se lei e Felice Promessa dividevano molte cose, questa doveva tenerla per sé, sapendo cosa pensasse lui delle usanze barbare. Non desiderava aggiungere la propria disperazione al dolore che lui avrebbe provato quando si sarebbero dovuti arrendere. Non poteva dimenticare l'espressione del suo volto quando gli aveva mostrato la lettera in cui Neve Fragrante annunciava che a talento coraggioso e virtù splendente era nata virtù gloriosa. Finì col rivolgersi a Ciccia. «Come mai, vecchia mia?» le chiese come per caso. «Tu e vecchio Falco non avete mai avuto bambini. Lui doveva desiderarne una dozzina. Ti adora come Buddha, lo dicono tutti.» «È vero.» Ciccia sorrideva, quasi faceva le fusa al solo ricordo. «Prima di sposare quella creatura pelle e ossa ero snella come un giunco. È difficile a credersi, lo so. Vivevamo con la sua famiglia su due mo' di terra. Quello stupido mi trattava come la moglie di un ricco, mi faceva star seduta a mangiar dolci tutto il giorno mentre lui faticava nei campi. Ben presto diventai grassa come la mercante di riso, ma lui diceva a tutti che ero bellissima. Immagina che sciocchezze, dire qualcosa del genere della propria moglie, persino i mediatori ridevano. Trascorso un anno, senza rimanere in felice attesa, io presi a non bere più acqua fredda, a non mangiare cocomeri, mi misi addosso tre strati di indumenti, standomene accoccolata vicino alla stufa, anche quando faceva caldo. Andai al tempio e pagai i preti perché mi lasciassero toccare il membro del mulo di bronzo. Ciccia si interruppe e tirò fuori un fazzoletto per soffiarsi il naso. Diventavo sempre più grassa, ma niente figli. Alla fine ci abituammo a vivere da soli e quando i suoi genitori morirono, venimmo a lavorare per il tuo clan, Amitabha. Se fossimo rimasti alla fattoria, sarei diventata dello spessore della grande muraglia. Ma non c'era niente che tu potessi fare? Beh, avrei potuto fare molte altre cose, ma nessuna mi avrebbe dato un figlio. Tutti gli indovini concordarono che nessun figlio era scritto nelle mie mani. Luna di primavera sospirò, esaminandosi la palma. Rapidamente Ciccia mostrò la propria. Vedi, sono del tutto diverse, tu avrai molti figli. Ne sei proprio sicura, amica mia? Così come sono sicura che c'è l'imperatore. 9. I pugni di giustizia e di concordia. Dalla storia cinese. Nell'anno del topo 1900 gli steli e i rami furono spogliati dall'inondazione e dalla siccità e la carestia si abbatté. Nella stagione del legno, quando negli anni buoni il grano invernale alza le spighe e maturano le ciliegie, i bambini venivano venduti dai genitori per 50 monete di rame a testa. Pechino era particolarmente gaia perché sia i ricchi sia i poveri dovevano mantenere le apparenze al fine di spezzare la catena di disastri naturali e di sfortuna nazionale. Teatri all'aperto, fiere intorno ai templi e mostre di fiori erano in piena attività e servi in livrea zigzagavano per gli hutong della capitale, recapitando inviti a sontuosi banchetti e ceste di uova bollite dipinte di rosso come augurio di felicità. Correva voce che 60 adoratori di Gesù fossero stati massacrati a meno di 200 li da Pechino, ma quasi tutti i forestieri del quartiere delle ambasciate minimizzarono la portata dell'episodio. La vedova non aveva forse dichiarato che tutti all'interno dei quattro mari sono fratelli? Quando il duca Lan, Invitò la casa dei Wu a una sontuosa festa che si sarebbe tenuta il 15° giorno della quarta luna. Sua Eccellenza menzionò specificatamente che desiderava fossero presenti il figlio della Han Lin e la sua giovane sposa. Quale onore per un uomo così giovane! Quale onore per una sposa novella! Dal momento in cui la busta rossa era stata aperta, le donne erano diventate più gentili con Luna di Primavera e avevano cominciato a rispondere al saluto, a complimentarsi con lei per la perdita del suo accento di Shuqiao, parlando gaiamente dell'acconciatura e dell'abito e dei gioielli che ciascuna avrebbe sfoggiato. Persino Felice Promessa, che considerava il duca un pazzo rivoluzionario e un potenziale nemico, finse dell'entusiasmo per amor suo. Il giorno prestabilito, all'avvicinarsi dell'ora della scimmia, lei sedeva in camiciola al tavolino da toiletta, agitando nervosamente il ventaglio. Sapeva che Porpor era già pronta dall'ora del cavallo, ma per la prima volta nella sua vita non riusciva a decidersi. I pendenti di zaffiro o i rubini? Quale ventaglio? Quello d'avorio o quello di seta? La corona di perle o il copricapo di argento filigranato? Oppure fiori? Un'orchidea? Una camelia? Una rosa? Forse soltanto pettinini di giada? No, scosse la testa. Il vestito, prima il vestito. Disperata guardò le tuniche disposte sul letto, sui bauri di canfora, sul divano del drago e sulle sedie di Lohan. Che cosa le capitava? Certo non era soltanto l'eccitazione alla prospettiva di vedere Pechino e di essere vista a sua volta a ridurla così. Marionetta, che già indossava la sua nuova blusa di seta turchese e i pantaloni, congiunse le mani in una silenziosa preghiera. «Sì, lo so, è tardi, ma non so decidermi. Quella blu reale o quella scarlatta? Quella color pesca o quella gialla?» Infine puntò il ventaglio verso la serva. «Sceglierai tu!» Subito Marionetta, con uno dei suoi rari sorrisi, si diresse verso l'abito verde smeraldo, adorno di fenici d'oro. «Hai ragione, naturalmente questo è quello giusto!» Non la sorprendeva. Marionetta aveva un gusto impeccabile. Chi l'avrebbe creduta una contadina? Quando non le si vedevano i piedi, nessuno l'avrebbe presa per una semplice ragazza di campagna. Sentì uno strattone. Era Marionetta che le raddrizzava l'orlo. Ora i gioielli. Allungò la mano verso lo scrigno e intravide il suo viso nello specchio. No, doveva prima conciarsi i capelli. Finalmente fu pronta. Lentamente entrò nella stanza attigua. Felice Promessa alzò gli occhi. I loro sguardi si incrociarono. «Ti piaccio, marito mio?» gli domandò tacitamente e capì che era proprio così. Si unirono subito agli altri nel cortile di ricevimento dove le portantine, prese in affitto, aspettavano di accompagnare la famiglia e i servi alla casa dei Lan. Attraverso un pertugio nella tenda, Luna di Primavera poté per la prima volta intravedere la capitale, un lì dopo l'altro di mura grigie, un mercante di tanto in tanto, polvere e ancora polvere. Niente di interessante, pensò, niente. Ma poi gli stretti Hutung cedettero a una distesa aperta che esibiva un grande bazar, una fila dopo l'altra di sete colorate scintillavano al sole calante. Venditori ambulanti, mendicanti, acquirenti e commercianti che contrattavano. Fermatevi, avrebbe voluto dire. Ma naturalmente non poteva. Innumerevoli bancherelle con mucchi di pellicce, zibellino e visone, ermellino e scoiattolo, volpe bianche, pelli di capra. Un cammello? No, tre! Si diceva che fossero comuni del nord, ma fino ad allora li aveva visti soltanto in una illustrazione del libro di talento coraggioso La grande strada di seta. La polvere la fece tossire e allontanò il viso dalla tenda, respirando attraverso il fazzoletto. Quando sbirciò di nuovo, vide una stradina su cui si allineavano negozi e insegne vistose dipinte d'oro, vermiglio e nero, pillole benefiche, il tonico della grande tigre, pozioni di serpente per purificare gli intestini, ogni tanto la gigantesca moneta d'oro di un cambiavalute. Svoltato un altro angolo, un altro vicolo. Riconobbe la strada prediletta da Felice Promessa, la strada dei librai, coi suoi negozi che offrivano pennelli, antiche stampe, tavolette d'inchiostro, libri, tutti oggetti per lo studioso. Poi, di nuovo mura grigie, ma non importava, la polvere e le oscillazioni della portantina le avevano fatto venire la nausea, si abbandonò di nuovo. Improvvisamente, la portantina si fermò. Proteggendosi gli occhi dagli ultimi raggi di sole, vide lanterne oscillare lungo la sommità di un grande muro. Soldati a cavallo con mantelli di un verde brillante montavano la guardia a un enorme portale sopra il quale pendevano bandiere nere e viola, i colori del duca Lan.